Tutti, a Combray, parlarono per 25 anni a Françoise di Madame Sazerin. E Françoise continuò a dire Madame Sazerin, non per volontaria e orgogliosa perseveranza nei propri errori. Perseveranza che era abituale in lei, si rafforzava del nostro contraddirla e costituiva tutto quanto dei principi egualitari del 1789 Françoise, la quale rivendicava un solo diritto civico, quello di non pronunciare come noi e di tenere ben fermo il genere femminile per hotel et er, aveva aggiunto dentro di sé alla Francia di Saint-André-des-Champs, ma perché in realtà non smise mai di sentire Sazerin. Questo errore perpetuo che è appunto la vita non dà le sue mille forme soltanto all'universo visibile e all'universo udibile, ma anche all'universo sociale, all'universo sentimentale, all'universo storico, eccetera. Il rango della principessa di Luxembourg non è che quello di una cocotte per la moglie del primo presidente, il che del resto non ha molta importanza, ne ha un po' di più che Odette sia una donna difficile per Swann, che ci costruisce tutto un romanzo destinato a farsi più doloroso quando si rende conto dell'errore. E ancora di più che agli occhi dei tedeschi i francesi non sognino che la rivincita. Dell'universo abbiamo solo visioni informi, frammentate, che completiamo con associazioni di idee arbitrarie, creatrici di suggestioni pericolose. Non avrei avuto dunque ragione di stupirmi sentendo il nome Forcheville, e già mi stavo chiedendo se fosse una parente del Forcheville di cui avevo tanto sentito parlare, se la fanciulla bionda non mi avesse detto subito, certo desiderosa di prevenire contatto o possibili domande sgradevoli: «Non ricordate? Una volta ci conoscevamo benissimo. Venivate a casa. La vostra amica Gilberte. L'ho visto che non mi riconoscevate. Io vi ho riconosciuto immediatamente». Lo disse come se mi avesse riconosciuto immediatamente lì, nel salotto. Ma la verità è che mi aveva riconosciuto per strada e mi aveva salutato. E Madame de Guermont mi disse poi che le aveva raccontato come una cosa buffissima e straordinaria che io l'avevo seguita e sfiorata prendendola per una cocotte. Solo quando se ne fu andata seppi perché si chiamava Mademoiselle de Forcheville. Dopo la morte di Swann, Odette, che stupì tutti con un dolore profondo, prolungato e sincero, era diventata una ricchissima vedova. Forcheville la sposò, dopo aver intrapreso un lungo giro per castelli ed essersi assicurato che la sua famiglia avrebbe ricevuto sua moglie. La famiglia fece qualche difficoltà, ma cedette per l'interesse di non dover più accollarsi le spese di un parente bisognoso che sarebbe passato da una quasi miseria all'opulenza. Poco dopo, uno zio di Swann, sulla cui testa la scomparsa successiva di numerosi parenti aveva accumulato un'enorme eredità, morì, lasciando tutta questa fortuna a Gilberte, che diventava così una delle più ricche ereditiere di Francia. Ma era il momento in cui, dagli strascichi dell'affare Dreyfus, era nato un movimento antisemita, parallelo a una più abbondante penetrazione della buona società da parte degli israeliti. I politici non avevano avuto torto quando avevano pensato che la scoperta dell'errore giudiziario avrebbe assestato un colpo all'antisemitismo. Ma, almeno provvisoriamente, un certo antisemitismo mondano ne era stato invece accresciuto ed esasperato. Forcheville, che nella sua minima nobiltà aveva tratto da conversazioni di famiglia la certezza d'avere un nome più antico di quello di La Rochefoucauld, riteneva d'aver compiuto, sposando la vedova di un ebreo, lo stesso atto di carità di un milionario che raccoglie per la strada una prostituta e la toglie dalla miseria e dal fango. Era pronto a estendere la sua bontà sino alla persona di Gilbert, il cui matrimonio sarebbe stato favorito dalla quantità dei milioni, ma intralciato da quell'assurdo nome di Swan. Dichiarò che l'avrebbe adottata. Sappiamo che Madame de Guermantes, per la sorpresa che lei d'altronde aveva il gusto e l'abitudine di provocare del suo ambiente, quando Swan s'era sposato, si era rifiutata di ricevere sua figlia come sua moglie. Questo rifiuto era, in apparenza, tanto più crudele in quanto l'eventuale matrimonio con Odette aveva lungamente rappresentato per Swan proprio la presentazione di sua figlia a Madame de Guermantes. Certo, avrebbe dovuto sapere, lui che aveva già tanto vissuto, come i quadri che uno si dipinge non si realizzino mai, per svariate ragioni, fra cui ve n'è peraltro una in virtù della quale egli non pensò molto a rimpiangere quella presentazione. Tale ragione è che, qualunque sia l'immagine, dalla trota da mangiare al tramonto che induce un uomo sedentario a prendere il treno, sino al desiderio di stupire un'orgogliosa cassiera fermandosi davanti a lei una sera in una carrozza sontuosa, che induce un uomo senza scrupoli a commettere un assassinio oppure ad augurarsi la morte e l'eredità dei suoi a seconda che sia più ardimentoso o più pigro, che vada più lontano nel perseguimento delle proprie idee o rimanga ad accarezzarne il primo anello. L'atto destinato a consentirci di raggiungere quell'immagine, sia esso il viaggio, il matrimonio, il crimine, eccetera, ci modifica abbastanza profondamente da non farci attribuire più nessuna importanza, forse addirittura da non farci tornare più in mente nemmeno una volta l'immagine presentatasi a chi non era ancora un viaggiatore o un marito o un criminale. O un isolato messosi al lavoro per la gloria e subito distaccatosi dal desiderio della gloria, eccetera. D'altronde, se anche ci ostinassimo a volere non aver agito invano, è probabile che non ritroveremmo quell'effetto di sole, che al momento buono, sentendo freddo, ci augureremmo una minestra accanto al fuoco e non una trota all'aria aperta. Che la nostra carrozza lascerebbe indifferente la cassiera che nutriva forse verso di noi per tutt'altre ragioni una grande considerazione e si insospettirebbe della nostra repentina ricchezza. Per farla breve, abbiamo visto come Swan, sposato, attribuisse importanza soprattutto ai rapporti della moglie e della figlia con Madame Bontemps, eccetera. A tutte le ragioni conseguenti al modo Guermantes di intendere la vita mondana che avevano indotto la duchessa a non lasciarsi mai presentare Madame e Mademoiselle Swan, si può aggiungere anche la felice sicurezza con cui la gente che non ama mantiene le distanze da ciò che essa biasima negli innamorati e che l'amore di questi ultimi spiega. Oh, tutto ciò non mi riguarda. Se il povero Swan si diverte a fare delle sciocchezze e a rovinarsi l'esistenza, è affar suo, ma non mi tireranno in queste faccende. Tutto può andare a finire nel peggiore dei modi, meglio lasciare che si sbroglino da sé. È il suave mari magno che lo stesso Swan mi consigliava riguardo ai Verdurin, quando aveva smesso da molto tempo d'essere innamorato di Odette e non teneva più al piccolo clan. È proprio quanto rende così saggi i giudizi dei terzi sulle passioni che non provano e sulle complicazioni di comportamento a cui queste conducono. Madame de Guermantes aveva persino mostrato, nel mettere al bando Madame e Mademoiselle Swan, una perseveranza che aveva destato stupore. Quando Madame Mollet, Madame de Marsantes avevano cominciato ad avere rapporti con Madame Swan e a portare a casa sua un gran numero di signore della buona società, non solo Madame de Guermantes era rimasta inflessibile, ma s'era adoperata per tagliare i ponti e perché sua cugina, la principessa di Guermantes, la imitasse. Uno dei giorni più gravi della crisi, quando, durante il ministero Rouvier, si credette che stesse per scoppiare la guerra tra la Francia e la Germania, pranzando da Madame de Guermantes solo con il signor di Proté, avevo visto la duchessa visibilmente preoccupata. Avevo pensato, dato che si impicciava volentieri di politica, che volesse mostrare in tal modo il suo timore della guerra. Così come un giorno che s'era messa a tavola con l'aria altrettanto preoccupata e rispondeva appena a monosillabi, a chi timidamente si informava del motivo di tanta angoscia, aveva risposto con gravità: «La Cina mi preoccupa». Ora, invece, spiegando lei stessa l'aria preoccupata da me attribuita al timore d'una dichiarazione di guerra, Madame de Guermont aveva detto dopo un istante al signor di Broté: «Dicono che Marie Aynard vuole introdurre gli Swan. Bisogna assolutamente che domattina vada da Marie Gilbert perché mi aiuti a impedirlo, altrimenti addio società». «Sì, sì, certo, l'affare Dreyfus, ma allora la droghiera qui all'angolo non ha che da votare nazionalista per pretendere in cambio d'essere ricevuta in casa nostra». E questo discorso, così frivolo a paragone di quello che m'aspettavo, mi aveva provocato lo stesso sbalordimento di un lettore che, cercando sul Figaro al solito posto le ultime notizie della guerra russo-giapponese, ci trovi invece la lista delle persone che hanno inviato regali di nozze a Mademoiselle de Mortemart. L'importanza di un matrimonio aristocratico avendo fatto retrocedere in fondo al giornale le battaglie di terra e di mare. La duchessa finiva del resto col trarre dalla propria perseveranza, perseguita al di là d'ogni misura, una soddisfazione d'orgoglio che non perdeva occasione per esprimersi. «Babal», diceva, «sostiene che siamo le due persone più eleganti di Parigi perché siamo i soli a non lasciarci salutare da Madame e Mademoiselle Swan. È sicuro lui che l'eleganza consista nel non conoscere Madame Swan». E la duchessa rideva di tutto cuore. Dopo la morte di Swan, accadde tuttavia che la decisione di non ricevere sua figlia avesse ormai finito di dare a Madame de Guermont tutte le soddisfazioni d'orgoglio, di indipendenza, di self-government, di persecuzione che le era stato possibile spremerne, e a cui aveva posto fine la scomparsa dell'essere grazie al quale aveva avuto quella sensazione deliziosa che gli resisteva, che lui non sarebbe mai riuscito a farle revocare i suoi decreti. La duchessa era passata allora alla promulgazione di altri decreti che, applicandosi a dei vivi, potessero farle sentire che era padrona di fare tutto quanto volesse. Non pensava alla piccola Swan, ma quando le parlavano di lei provava una curiosità come di un posto nuovo, cui non faceva più velo il desiderio di resistere alle pretese di Swan. D'altronde, sono tanti i diversi sentimenti che possono contribuire a formarne uno solo, che è difficile dire se non vi fosse in questo suo interesse qualcosa di affettuoso per Swan. Probabilmente, giacché a tutti i livelli della società una vita mondana e frivola paralizza la sensibilità e toglie il potere di risuscitare i morti, la duchessa era di quelle che hanno bisogno della presenza, presenza che da vera Guermont eccelleva nel prolungare, per amare veramente, ma anche, cosa più rara, per detestare un poco. E così spesso i suoi buoni sentimenti verso le persone, sospesi finché esse erano vive dall'irritazione provocata in lei da questa o quell'altra delle loro azioni, rinascevano dopo la loro morte. Provava allora quasi un desiderio di riparazione, perché le immaginava, assai vagamente peraltro, soltanto con le loro qualità, e scevre delle piccole soddisfazioni, delle piccole pretese che la infastidivano in loro quando erano in vita. Questo dava a volte, malgrado la frivolezza di Madame de Guermont, qualcosa di abbastanza nobile, mescolato a molta bassezza, al suo modo di agire. Infatti, mentre i tre quarti degli esseri umani blandiscono i vivi e non tengono in alcun conto i morti, lei faceva spesso, dopo la morte delle persone che aveva maltrattate, ciò che esse avrebbero desiderato vederle fare da vive. Quanto a Gilbert, tutte le persone che le volevano bene e avevano un po' di amor proprio per lei, avrebbero potuto rallegrarsi delle nuove disposizioni della duchessa nei suoi confronti solo pensando che Gilbert, respingendo con sdegno profferte che arrivavano dopo 25 anni di oltraggi, se ne sarebbe finalmente vendicata. Purtroppo, i riflessi morali non sono sempre identici a come li immagina il buon senso. Uno che, a causa di un'ingiuria fuori posto, ha temuto di veder definitivamente compromesse le proprie mire su una persona a cui tiene, le serba invece intatte proprio grazie ad essa. E Gilbert, abbastanza indifferente alle persone che si mostravano gentili con lei, non smetteva di pensare con ammirazione all'insolente Madame de Guermont, di chiedersi le ragioni di quell'insolenza. Una volta, cosa che avrebbe fatto morire di vergogna per lei chiunque le fosse un po' amico, aveva persino pensato di scrivere alla duchessa per chiederle cosa mai avesse contro una ragazza che non le aveva fatto niente. I Guermont avevano assunto ai suoi occhi proporzioni di cui la loro nobiltà sarebbe stata impotente a dotarli. Li metteva al di sopra non soltanto di tutta la nobiltà, ma persino di tutte le famiglie reali.